Vážený pane předsedo, vážení senáte, já jsem, promiňte mi tu emoci, ale oprňoval k tomu, abych na soudu vystupoval důstojně a abych se obrnil vůči emocím toho, že svém dětě jsem přijímal pana Škárku mnohokrát kamarádsky. Voci, voci dalla Repubblica Ceca, dove stiamo andando. Oggi parleremo di turismo anche in Europa, di turismo sostenibile, ma anche di forme di turismo bizzarre e alternative, come quella che abbiamo trovato qui in Repubblica Ceca, dove a Praga è stato lanciato un tour che propone di andare a visitare i luoghi più corrotti della città. Si chiama Corrupt Tour, è stato ideato da una 37enne che ha avuto l'idea di organizzare questo nuovo business. Pare ci sia tanta richiesta e tanta curiosità. Per saperne di più abbiamo invitato il direttore responsabile della Voce.cz, che è un quotidiano online che, di cui hanno scritto anche di, appunto, di questo particolare tour. Do il benvenuto ad Antonio Papaleo. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Prima di entrare in questo tour, presentaci la Voce, perché è un bel esperimento di sano giornalismo, vero? Oh, sì, ti ringrazio. Noi in realtà produciamo quotidiani online dai paesi di Visegrad, quindi dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, lo facciamo anche in inglese con il marchio The Daily, e quindi siamo l'unica fonte, non l'unica, ma comunque la fonte di informazione privilegiata per le comunità straniere residenti in questi paesi. Mm-hmm. Ecco, e quindi scrivete di politica, di economia, di attualità e poi anche di quella che è cultura e società, come per esempio questo tour che è stato lanciato in queste settimane, che da un certo punto di vista è, vabbè, uno sorride anche per la bizzarria della cosa, da un altro punto di vista è un po' preoccupante, nel senso che se la corruzione diventa anche forma di spettacolo vuol dire che forse è stato superato un certo limite, è stato quasi sdoganato il concetto di corruzione. Beh, in realtà considera, noi abbiamo una colonna dedicata nei nostri giornali agli scandali, e per scandali ovviamente intendiamo quelli politici, economici, i grossi casi di corruttela, e perché ovviamente esiste un fenomeno molto particolare. Secondo l'associazione Transparency International nel 2011 la Repubblica Ceca è al 57esimo posto nel mondo, insieme a Namibia e Arabia Saudita. Ovviamente la percezione della gente rispetto agli scandali continui nella gestione della cosa pubblica rende l'argomento particolarmente scottante. È così che un ragazzo, questo Peter Surek, che comunque è già stato un organizzatore di eventi culturali e di mostre d'arte, ha inventato questo tour della corruzione, che comincia ad avere un certo numero di, voglio dire, di presenze di turisti. Il fatto è che all'inizio il tour è iniziato come una guida alla città in lingua ceca e quindi rivolto alla gente del posto. Poi è diventato però interessante anche per i turisti. Hanno cominciato a settembre e pare che gli vada abbastanza bene. Adesso addirittura dovrebbero cominciare a fare la stessa cosa in Slovacchia. Ecco, e quali sono i luoghi visitati? Quali sono le tappe di questo tour? In realtà sono luoghi pubblici, edifici della pubblica amministrazione, ogni tappa la guida illustra uno scandalo, un fatto notorio nella malversazione o nella cattiva gestione della cosa pubblica. In realtà esiste una predisposizione strutturale del paese, del suo sistema legale, che consente l'esistenza di così tanti meccanismi di corruzione. Per esempio è possibile in Repubblica Ceca registrare delle società anonime al portatore che sono addirittura abilitate ad eseguire lavori pubblici. Questo significa che di fatto non è possibile scoprire chi sia il reale beneficiario degli appalti e del denaro proveniente da fonti pubbliche. Ma questo vuol dire che lo stesso tour è abusivo, nel senso che immagino non ci sia l'autorizzazione per andare a visitare questi luoghi pubblici con questo occhio particolare, cioè di caccia al corruttore, al corrotto? Considera comunque una cosa, stranamente il paese ha comunque un assetto legislativo assolutamente democratico, questo significa che alcuni margini di libertà individuale, di libertà di espressione, perché no, anche alcune forme assai bizzarre, non solo di imprenditoria ma di provocazione, diventano consentite o quasi abituali. Ovviamente la maggior parte delle visite si svolge all'esterno dei palazzi della pubblica amministrazione, quindi non richiede di permessi speciali, ma ciò non toglie il fatto che comunque le guide abbiano un livello di tolleranza molto maggiore che in altri paesi d'Europa. Okay. Ringraziamo Antonio Papaleo, ricordiamo www.lavoce.cz, il sito, il portale del quotidiano online a Praga, e ci ritroveremo sicuramente, Antonio, nelle prossime settimane per parlare del vostro lavoro e per andare a caccia di altre notizie dalla Repubblica Ceca. Ciao e buon sabato, grazie. Ciao, grazie Federico, buona giornata.